così grande, tutto il mare attraversato per portarmi tante cose oramai dimenticate. Il tuo amore così buono, quanto male sopportato per non farmi più soffrire e per non lasciarmi solo. Quanto bene tu mi hai fatto carezzandomi la mano quel mattino ormai lontano che mi ha regalato te. E il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Quanto bene tu mi hai fatto carezzandomi la mano quel mattino ormai lontano che mi ha regalato te. E il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi.